fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io sono reduce già da una accesa discussione con i miei ascoltatori su Facebook, perché avendo già annunciato da ieri l'argomento di questa mattina, loro stanno dicendo ti sei rimbecillito, sei diventato come Mollica, come Pippo Baudo, non capendo assolutamente cosa significhi fare della retroavanguardia. Oggi siamo qui per celebrare i 40 anni di un momento fatidico nella nostra storia nazionale. Qualcosa che, per quanto noi possiamo disprezzare, per quanto possiamo riderci sopra, per quanto possiamo considerarlo solo umile retaggio di un gusto nazional popolare, in qualche maniera ci rappresenta. E questa mattina vorremmo dimostrare che c'è un po' di azzurro in ognuno di noi. Vai! Azzurro e pomeriggio, azzurro e lungo. Per me ne ha tutto. Sembra quando era l'oratorio dove combatto a sole l'andiamo in mare. Azzurro i pomeriggi, sempre azzurro e lungo per me ne ha tutto. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, Paolo Conte, Adriano Celentano, interpretato da Fortunato Castagna. Questi sono dei piccoli pezzi presi stamattina rubacchiando qua là su YouTube delle persone nella loro smania di rappresentazione familiare, di casting del salottino e del cucinino, hanno messo questa canzone come colonna sonora imposta ai bambini che devono fare le scimmiette e cantata da loro. Poi ne abbiamo un'infinità di persone che cantano Azzurro, perché è profondamente intriso il nostro DNA di questa canzone. Non sappiamo perché, perché va a toccare probabilmente delle punte nascoste, dei rimasugli del nostro immaginario, del nostro vissuto familiare, per cui in parte vedrete tutti ne siamo presi e contaminati. Vi faccio sentire adesso una versione, cioè avviciniamo nella maniera più astrusa possibile a questa canzone, una versione dei Toten Hosen, che è un gruppo tedesco totalmente scalcinato, che nel 1990 hanno appunto dei mondiali di calcio, fanno questo videoclip orripilante in cui loro, penso forse venuti in Italia a vedere la partita Italia-Germania, qualcosa del genere, con una macchina totalmente scassata, con dietro sul lunotto posteriore ciao, quell'orribile pupazzo fatto di cubi bianchi, rossi e verdi, cantano la canzone che secondo loro rappresenta meglio gli italiani. Non a caso ne parliamo, di Azzurro ne parliamo, perché sono 40 anni che questa canzone comunque è, volenti o nolenti, una colonna sonora costante della nostra giornata. Noi vogliamo fare un'analisi di Azzurro parola per parola, verso per verso, scintilla per scintilla, per capire il perché, e vedrete quanto poi è serpeggiante nella storia di questi ultimi 40 anni, è così presente, così amata, ma anche così detestata dagli italiani. 800240 0024, quanto di Azzurro c'è in voi? E adesso, per dare una giusta cornice, anche storica, a questo racconto, abbiamo Fabio Canessa. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Fabio Canessa ha appena scritto un libro per Donzelli, Conte, Celentano, un pomeriggio, Azzurro, in cui Fabio, che siamo fra l'altro anche amici, quindi mi fa molto piacere averti qui oggi mio ospite, ha raccontato le ragioni storiche e probabilmente immaginifiche, per cui Azzurro è così importante. Cosa celebriamo noi quest'anno rispetto a Azzurro, Fabio? Ma celebriamo innanzitutto un 68 diverso. Quest'anno si è parlato molte volte del 68, della questione politica, del Che Guevara, della rivoluzione e così via, dimenticandoci che la canzone del 68 è Azzurro, non sono gli Inti Illimani o Guccini. E oltretutto, non solo la canzone ebbe un successo strepitoso immediato, ma per 40 anni non se n'è mai andata, appunto, come dicevi tu. E non è una canzone così semplice e così, insomma, scontata. Era in mezzo alle canzoni balneari dell'epoca, Luglio col bene che ti voglio di Riccardo Del Turco, Ho scritto t'amo sulla sabbia di Franco IV e Franco I, si poneva da una prospettiva completamente nuova, cioè non le ragazze sulla spiaggia e il divertimento, ma uno scoglionato che gira da solo per la città e pensa alla sua bella che è al mare. Fra l'altro è uno scoglionato con una sorta di destino che lo segue per tutta la vita. Noi poi analizzeremo, l'abbiamo fatta leggere pezzo per pezzo tutta la storia del protagonista di Azzurro. Insomma, è uno che l'estate non va mai al mare. Non ci andava da bambino perché giocava nel giardinetto a far finta che il gatto fosse un leone insieme al Baobab. Non ci andava da ragazzino adolescente perché andava all'oratorio da solo come uno sfigato, e non ci va nemmeno da grande perché mentre la fidanzata è al mare lui se ne sta lì a sentire gli aerei che volano e a rodersi nella giornata assolata. Giulio Giorello, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Giulio Giorello, filosofo della scienza, però ci dà un suo contributo anche nell'analisi di Azzurro. Hai sentito cosa ha detto Canessa? In realtà tutti gli italiani che dicono noi abbiamo fatto il 68, nella primavera del 68 e per tutta l'estate del 68 cantavano Azzurro. Questa è una sorta di riconquista di un tempo perduto? Io, se devo aggiungere a quelli di Fabio i miei ricordi personali, posso dire che mi torna in mente che la fine dell'estate del 68, quando ero con alcuni miei compagni che studiavamo tutti logica insieme, proprio anche il mio caro amico Marco Mondadori, l'attuale filosofo Marco Sant'Ambrogio, eravamo confinati a Varenna in un bellissimo convegno di logica formale, ma ogni tanto andavamo a prenderci una pausa di distacco e di riflessione, giocavamo a biliardino in qualche baretto e cosa mettevamo? Azzurro. Ovviamente al jukebox mettevamo Azzurro, quindi non è che ci sentissimo in questo meno politicamente impegnati o meno, come dire, coinvolti in cose sublimi, astratte come la logica formale. Azzurro noi, insomma. Però Giulio, molto più, devo dire, degli Inti Illimani, perché questo Condor che doveva passare si sentiva spesso soprattutto nelle riunioni dei gruppi o dei partiti di sinistra, e sto Condor non passava mai, finalmente è passato, e teniamoci invece l'Azzurro del cielo. Rispetto, dicevo, alle canzonette balneari che allora come oggi erano la colonna sonora dell'estate, sale, spiaggia, pelli abbronzate, in fondo Azzurro c'aveva una sorta di sottofondo esistenzialista, amaro, di riflessivo. Era una condanna a stare fuori delle consuetudini, chi stava in città, rispetto alla celebrata gioia delle vacanze. Io credo che Azzurro fosse un'espressione molto ben fatta, sia musicalmente sia nel testo poetico, di un vecchio grande sentimento che attraversa la cultura dell'Occidente, che è quello della melanconia, dell'umore nero, che è nello stesso tempo rimpianto ma è anche ironia. È passato che ritorna, che non vuole andarsene, ma è anche uno sguardo sul futuro. È un po', come potrei dire, Azzurro, il nostro anti-Proust, non nel senso che sia contro Proust, ma è un po' Azzurro la nostra Madeleine, che invece di essere messa nella tazzina di tè, prende questi frammenti di ricordi dal cortile con appunto il gatto e una pianticella un po' malmessa, che diventano il leone e il baobab, un po' quell'immaginario dell'Africa reso meravigliosamente alla fine degli anni 30, ancora negli anni 40, da alcune tavole meravigliose del Corriere dei Piccoli, insomma. È questa storia qui, è questa forma di melanconia che diventa anche critica, diventa ironia, diventa sguardo disincantato. E questo mi sembra. Io mi ci riconosco molto in Azzurro, per carità, con senza un particolare, però io da ragazzo non andavo all'oratorio. Ecco, questa è l'unica differenza con il protagonista della canzone. Qual era l'alternativa all'oratorio, generazionalmente parlando, Giulio? Ma alcuni dei miei coetanei più politicamente impegnati ogni tanto andavano a fare il pioniere dell'unità. Io devo dire che mi limitavo a quelle che allora si chiamavano le piccole bande di periferia, cioè non erano dei teppisti, eravamo semplicemente dei ragazzi che o si giocava a calcio per strada, allora non c'era il traffico di oggi, oppure qualche volta si giocava a nordisti e sudisti, nel senso della guerra civile americana, ben inteso, o a indiani o cowboy. Io tenevo per gli indiani e tenevo spesso anche per i sudisti. Era un po' una gioventù, in un qualche senso non ideologico, anarchica. Tra l'altro uno dei miei più cari amici, appunto, che conosco da 50 anni, Luciano Lanza, oggi è diventato un anarchico vero e proprio, cioè uno che ha costruito una bellissima rivista politica che si chiama Libertaria. Quindi l'alternativa fa anche l'autore a Buona Domenica, fa tutto, è poliedrico in questo. Sì, ed è, io devo dire questo, che è una, come dire, è un po' inventarsi. Inventarsi un mondo diverso, no? In questo senso, prima qualcuno citava Guccini. Secondo me Guccini è interessante non tanto per le sue, per certe sue canzoni volutamente impegnate e politiche, ma per quella bellissima intuizione di una delle sue canzoni quando dice racconta Modena, piccola città sospesa tra la Via Emilia e il West. Grazie Giulio Giorello. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Ecco, penso che in questo momento sono nuovamente in linea. Io poi qualcuno domani mi spiegherà cosa succede a queste divertenti interruzioni. Mi sembra in questo momento dovrebbe sentirmi tutto il mondo e quindi riprendo a parlare con il nostro ascoltatore con cui stavo prima in telefono. È caduto anche lui. Bene, Fabio Canessa, vediamo di superare. No, non sono caduto. Ah no, c'è ancora? Perfetto, benissimo, ancora in linea. Abbiamo ripreso quello che avevamo in mano. Allora, lei mi diceva che le dava un ricordo fanciullesco legato a delle colonie a Spotorno, questa idea del mare. Però lei al mare ci andava realmente. Il protagonista di Azzurro non ci va mai, lo sogna soltanto. No, infatti. Comunque, vabbè, quella canzone mi piaceva tantissimo perché appunto era... Comunque sì, vabbè, è un bambino di 8 anni, comunque il fatto di essere in colonia, quindi lontano, per la prima volta lontano dai genitori, perché insomma la colonia si andava perché faceva bene, però era anche così, noi bambini la vivevamo come una sorta di, non proprio di punizione, ma di privazione, perché insomma si stava lontani da casa, lontani dalla mamma, dal papà, eccetera, ci si trovava in questa situazione in cui c'erano i vecchi che comandavano, un po' c'era un po' di nonnismo, eccetera, per cui in questa canzone svegliarsi alla mattina era abbastanza struggente perché si pensava alla mamma lontana a casa, era un po' come fare il militare, insomma, per la prima volta. E quindi questa canzone è bellissima, ho questo ricordo, che si alternava tra l'altro alla banda di Mina, facevano una settimana Azzurro, una settimana la banda. Grazie, a presto. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per Fabio Canessa. Eccomi. Abbiamo mandato tutte le versioni possibili e immaginabili, almeno le più note, di Azzurro. Adesso vediamo di fare un po' la storia di questa canzone. Come nasce, come da Paolo Conte, Pallavicini, poi entra in mano Celentano, poi la riprende Conte, poi Celentano è la versione più conosciuta, Conte è quella che apprezzano più, diciamo, quelli che hanno un po' in spregio questo spirito popolare, ma ne apprezzano comunque il testo. Vediamo un po' come serpeggia nella nostra storia la canzone Azzurro. Beh, serpeggia che più appunto c'è il contrasto fra Conte, Celentano, Pallavicini che ha scritto il testo, e più la canzone è ricca di umore, cioè l'incontro fra la scrittura musicale di Conte, che è una marcia di strapaese, una marcetta che sembra allegra ma che ha un testo in controtendenza, come diceva appunto Giulio, piuttosto malinconico. L'interpretazione di Celentano, che gli dà un tocco nazional popolare estremamente cantata con grande nonchalance, come di quello che gira in bicicletta per le strade del quartiere, e quindi il suo DNA, diciamo il suo fascino, consiste proprio nella composizione fra questi umori contrastanti. E poi c'è, prego. No, vai, ti sto sentendo. Poi c'è chi preferisce una versione o l'altra, perché Paolo Di Stefano qualche anno fa ha tratto dalla canzone Azzurro un libro intitolato Azzurro, troppo azzurro, che è un noir disperato e assolutamente devastante, apocalittico, e altri invece sentono Azzurro come una marcetta allegra, ed è curioso che molti la propongano come inno nazionale, una specie di inno nazionale al contrario, perché anziché essere impettito, epico, l'elmo di Scipio, moriremo per la patria e così via, racconta un atteggiamento molto dimesso che forse ha più a che fare con l'identità degli italiani di quanto non lo abbiano gli inni, quelli ufficiali. 800 24 00 24, vediamo di riprendere il filo di questo ragionamento. Quanto c'è di Azzurro in voi? Abbiamo visto che una canzone sembra stata fatta, organizzata, proposta e riproposta proprio per appartenere a tutti. Cominciamo, Fabio, a sentire il testo, spogliato dalla canzone, spogliato dalla musica, spogliato dal ritmo che abbiamo nelle orecchie, la cruda scrittura di Azzurro, e vediamo nelle parole quanto troviamo ognuno di noi. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Ecco Fabio, io ti dico la mia impressione, poi tu mi dici la tua. Questo è un poveretto che sta con una ragazza che è al di sopra delle sue possibilità. La famiglia di lei probabilmente nel 68 già poteva permettersi tranquillamente una villeggiatura al mare. Saranno andati sulla Riviera Romagnola probabilmente, o a Milano Marittima, o da qualcuno di questi luoghi ameni. Lui poverino è talmente sfigato, probabilmente figlio di operai, che deve starsene a casa. Sente gli aerei che passano sopra perché abita non a Milano, probabilmente già sta verso l'aeroporto, già sta nelle periferie più remote, e sogna questa estate che è il sogno irraggiungibile di tutti i suoi anni, ma ahimè c'è un grande, profondo separatore sociale tra lui e la sua donna. C'è qualcosa di corretto secondo te? Sì, più o meno così. La differenza è che il modo in cui la canta Celentano è piuttosto indolente, piuttosto naturale. Mi cioè, sembra non giusto. C'è questa drammaticità. C'è senz'altro il senso di esclusione. Gli altri si divertono e io no. Però è curioso che la canta in maniera un po' svogliata, non questa solitudine, questa esclusione non ha un tono drammaticissimo. Perché su Celentano c'è una sorta di compiacimento della periferia, sembra che sia il suo humus naturale, c'è questo senso anche di fuga dalle consuetudini borghesi. In fondo lui da ragazzo della via Gluck se ne sta bene lì perché quella è la sua gente, è il suo posto, ma questo non è un sentire nazionale. Noi abbiamo vissuto per decenni l'invidia di quelli che potevano permettersi dei consumi che non erano alla nostra altezza. Sono gli anni post boom economico e dunque è un momento in cui l'Italia si sta insomma un po' assestando, e allora l'idea dell'operaio o dello studente fuori corso o di qualcuno che insomma non è precisamente in prima fila è sicuramente alla base del clima malinconico del testo. Bene, noi diamo la linea alle informazioni della borsa, ci fermiamo un istante con Fabio Canessa, ricordo autore di Conte Celentano un pomeriggio azzurro, Donzelli Canzoni editore, 800240024. Vedete che lentamente stiamo capendo che in fondo dietro il testo di una canzonetta dell'estate si nasconde lo spaccato di un paese che forse in piccola parte ognuno dentro questa canzone trova qualcosa di se stesso. Spaventevoli domeniche solitarie all'oratorio, il solo luogo assieme alle carceri, gli ospedali e i cimiteri, in cui lo zenith assolato non è proprio sinonimo di gioia. Stringe la pancia al morso della nostalgia, ma quella canzone conosce bene le disperazioni dell'adolescenza, ancor più lancinanti quando culminavano nella solitudine caldiccia delle domeniche all'oratorio. Odore di piedi sudati, di polvere da campo di calcio, di tonaca nera di salesiano intrisa di generazioni di minestrone. La passeggiata lungo il cortile di granaglia a contare le inclusioni di ogni mattonella, così per passare il tempo, per fuggire al prete che voleva prenderti sotto braccio per sfrugliarti sui cazzi tuoi. Il cielo era maledetto e sempre azzurro, proprio così, azzurrissimo come il mare interdetto ma vagheggiato, lontano e solo immaginato. Azzurro interminabile che non passava mai. Azzurro per sberleffo alle scarpe di cuoio. Con i lacci che martirizzavano, strangolavano, soffocavano, proprio perché nere come rondini stecchite, e si impolveravano subito, ma erano ancora quelle dell'inverno e andavano finite. Azzurro che sfumava finalmente nel grigio quando si poteva tornare a casa, stremati di noia e di angoscia per i compiti ancora da fare. Ecco, siccome molti mi stanno chiedendo ma per te cos'è stato azzurro, ve l'ho letto cos'è stato per me azzurro. Siccome Fabio Canessa, nel libro di cui stiamo parlando questa mattina, Azzurro, ha chiesto a una serie di amici: dimmi cosa pensi te d'azzurro, e lo chiese anche a me proprio quest'estate, io questo gli avevo risposto e questo vi ho fatto sentire. Fabio, stiamo... mi senti? Ah, ecco, scusa, perché quest'attina ho poco il controllo di quello che sta accadendo, quindi stiamo lentamente riprendendo. Ecco, di tutte le persone che tu hai sentito, puoi trarre una sorta di comune impressione transgenerazionale? Abbiamo sentito Giulio Giorello, un filosofo della scienza, che anche lui legato a Azzurro comunque dei ricordi fanciulleschi. Un po' ci riporta immediatamente a un senso di nostalgia che ognuno poi filtra attraverso la propria esperienza, la propria sensibilità. Per me è un senso di noia, macerazione, quasi mortifera, ma per altri ha anche degli accenni più lievi, più ottimistici. Ma no, ottimistici non molto. Innanzitutto, ormai essendo il 68, cioè essendo passati 40 anni, Azzurro, come diceva Giulio Giorello, fa un po' l'effetto della Madeleine, cioè è il ricordo di un'estate di 40 anni fa e quindi è il ricordo per tutti della giovinezza, e anche quegli elementi italianissimi come l'oratorio, la spiaggia, il prete e l'aereo che passa sopra i tetti ormai sono stati medicati dal tempo. Difficile che qualcuno lo identifichi con la propria tristezza, è più facile che, ecco, se c'è un filo conduttore, che questi che ho sentito, che sono un po' un campione di italiani per questo inno alternativo che sarebbe Azzurro, è un po' un ricordo struggente di un'Italia più semplice, più a misura d'uomo, meno congestionata, e anche dei tempi in cui c'erano i dischi per l'estate, in cui, come dice Dario Fo, per andare a trovare la ragazza si prendeva il treno, e quindi tutto sommato diciamo il merdone dello scoglionato viene corretto da un senso di affettuosa nostalgia per quando eravamo più giovani. Michele, buongiorno. Ciao Nicoletti, buongiorno a tutti. Lei è proprio il protagonista sfigato di Azzurro, dice. Io sono uno sfigato di Azzurro, ti do del tu perché sono un facebookiano. Sì, va benissimo, può darmelo chiunque, al di là di questo. Dato tu, lei, qui non si capisce. Niente, quello che volevo dire è che quella canzone è un falso. È un falso perché io ho 58 anni, quindi per cui all'epoca avevo 17 anni. Diciamo, generazionalmente potevi essere tu questa persona. Ero io, nel senso che comunque quella canzone è troppo bella. Quelle parole che erano dette così poetica, poi recitate sono ancora più, danno più l'idea, no? In realtà all'epoca eravamo stati poveri, perché eravamo, ti dico, la media dei miei amici, compagni di scuola, eravamo poveri. Cioè, poveri, oggi, all'epoca eravamo normali, oggi saremmo stati dei barboni, ma quello che è che tu dovevi vincere la noia di quei momenti, e io di poetico non ci vedevo niente. Poi c'era questo parallelo con la TV che ti dava delle, era poca all'epoca, quindi era molto poca, e dava un'immagine come se fosse quell'immagine che dovevi raggiungere, ma una società che non era, cioè non corrispondeva a quello. Ma da quello nasce lo struggimento, da un modello inraggiungibile di vacanze, di spumeggianti ragazzi corrono sulla spiaggia a bersi l'aranciata. Io ricordo tutti i caroselli di quel periodo. Sì, sicuramente. L'unica cosa che non era veramente percepibile è quello che oggi viene detto il 68. Assolutamente quell'estate non si sentiva nulla che assomigliasse allo spirito del 68. Ma no, assolutamente. Ti posso assicurare che ero anche un attivista, se vuoi, moderato da questo punto di vista. Del partito? Ma, sì, no, non avevo un partito. Io ero al movimento studentesco, mi interessavo, facevo l'università. Quello che però vedi è molto diverso, no? Perché quella canzone, no, anzi, è proprio l'antitesi del 68. E quell'immagine. Ma scusa un attimo, ho fatto un madornale errore prima e confondo. E devo naturalmente scusarmi e rettificare. Giulio Giorello ha citato un suo amico, Luciano Lanza, che ha fatto una bellissima rivista di filosofia, ho detto anche autore di Buona Domenica, in realtà è Cesare Lanza, altro mio conoscente. Sono quei lapsus che accadono quando c'è una diretta un po' tormentata. Quindi mi scuso con Luciano Lanza, non è lui Cesare Lanza. Nessuno è infallibile, ma per amor di Dio. Volevo dirti, no, dirti solo semplicemente questo, no? Era proprio l'antitesi con l'immagine. Era quella, quel tipo di canzone che serviva più per addormentare che per svegliare, non so se mi spiego. Ti dava di quelle illusioni che per quell'epoca andare al mare in vacanza o avere la macchina, la 500, la 600, era un lusso, no? Quindi qualcosa che uno su mille poteva farlo, quindi per cui erano noi li vedevamo da, come si dice, da sessantottini, chiamiamolo così, li vedevamo un po' come delle provocazioni. Ecco. Beh, noi andiamo avanti nella lettura del testo di Azzurro assieme a Fabio Canessa, ci siamo fermati alla prima parte, andiamo nella seconda fase, entriamo più nello specifico, nei ricordi di questa persona che in maniera struggente ha una ragazza lontana, poi nemmeno ha tanta voglia di raggiungerla in fondo. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino. Ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone. Chissà dov'è. Ecco Fabio, questo immaginario legato a una sorta d'Italia piccola, un po' molto clericale, a certe letture per ragazze, in mente Iacovitti, non so perché, Iacovitti era l'espressione più felice e altamente poetica di questo tipo sì, di Italia. C'è Iacovitti, ma c'è anche il crepuscolarismo un po' alla Gozzano, le domeniche noiose, i pomeriggi interminabili, la noia. Ecco, c'è un'Italia che si confeziona un esotismo casalingo, l'Africa in giardino, e che, così come l'americano a Roma di Alberto Sordi sogna l'America, l'Africa in giardino poi ritornerà in moltissime canzoni di Paolo Conte. Che è l'ultima sfumata comunque dei ricordi coloniali dei nonni di quella generazione. Sì, e anche dei ritmi del jazz, dei balli come la banera che insomma Conte nomina spessissimo, e quindi c'è una come sempre una identità che sta fra l'arci italiano e l'anti italiano, fra l'annegare nello squallore della provincia e il sognare invece di essere altrove, di essere in Africa, di avere delle avventure esotiche con leone, il baobab e così via. Grazie Fabio, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24, quanto azzurro c'è in noi. Stiamo ricollegando faticosamente perché sono sempre metodologie faticose, quelle quando si riallacciano i ricordi, quando si confrontano i propri ricordi con i ricordi comuni. Comunque questa mattina il pretesto per riflettere su noi è la canzone Azzurro. Ho in studio Fabio Canessa, che ha scritto un libro su Azzurro, Donzelli editore, e ho già al telefono degli ascoltatori che vogliono aggiungere le loro nostalgie a quelle che noi stiamo evocando. Questa è una mattina in cui le donne non chiamano, quindi Azzurro abbiamo capito che è una canzone per soli uomini. Manfredo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno Gianluca. Secondo te perché per soli uomini veramente, Azzurro, sono solo i nostri ricordi maschili? Ma non vedo pubblico femminile, le donne non... Beh, forse c'è da dire una cosa, forse in quegli anni lì le ragazze stavano più spesso in casa a sognare con Lancio Story, mentre invece i ragazzi e i ragazzini stavano in mezzo alla strada appunto a giocare a pallone, a fantasticare chissà quali derive del futuro, insomma, forse è questa la... Per te invece cosa ricorda? No, a me guarda, mi ha fatto, io l'avevo vista anche ieri su Facebook, però non me l'ha fatto questo effetto. Mentre ascoltando invece il testo della canzone mi ha fatto venire in mente Il sorpasso di Dino Risi, anche se di qualche anno prima. Ah, il povero Trintignant, che poverino, esatto, la vittima perché... di qualcosa. Esatto, sì. Proprio mi sono visto proprio, Trintignant per me è azzurro a questo punto. Beh sì, perché anche Il sorpasso è ambientato in una Roma, penso sia così, Roma assolata, sì, sì, d'estate, questa botta di vita. Questa botta di vita, questa corsa su per le strade che portano fino a Castiglioncello, E lui era il povero studente che in realtà sta lì, voleva studiare. Sì, uno sfigatissimo, poi c'è quella fase bellissima di Gasman che fa... E chi è sta cicciona? Mia madre, perbacco, bella donna. Vabbè, ma questo... Fabio Canessa, tu che di cinema te ne intendi abbastanza, trovi corretta questa lettura del nostro ascoltatore? Sì, è vero, anche lì c'è ci sono i contrastanti succhi di un'estate dolce e amara insieme. È vero che c'è una botta di vitalità, e però anche lì c'è molto l'identità degli italiani. Un sì, altro italiano... promossa da una macchietta tipica, il sì, tombeur sì, de femme di casa nostra, ridicolo, con la macchina decappottabile, con lo sì, spiderino, spaccone vanaglorioso, una sorta di miles gloriosus che alla fine crea soltanto vittime sul suo passaggio. Invece che no, la trovo una buona idea, perché in effetti è uno che è da solo nella assolata estate romana e lui lo prende davvero il treno dei desideri, soltanto che lo porta appunto alla morte. Ecco, sentiamo l'ultima parte del testo della canzone, compresa del ritornello, che è quello che finora non abbiamo analizzato. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora, io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri, all'incontrario va. Ecco Fabio, questa per me è la frase più sibillina. Perché il treno va all'incontrario? Non ci vuole andare da questa ragazza, gli è impossibile andarci, non ha nemmeno le 75 lire per il biglietto per andare fuori porta. Ma in grande sintonia con la musica, quando Paolo Conte presentò la musica di Azzurro a Celentano, Celentano gli disse che era rimasto molto stupito perché lui pensava che la musica andasse in su, diceva lui, e invece andava in giù. E scende. Come appunto il treno dei desideri, anziché andare dalla ragazza e raggiungerla sulla spiaggia, come accade nel finale del luglio di Riccardo del Turco, per esempio, anche lui nei pensieri all'incontrario va. Cioè, insomma, c'è la consapevolezza che i nostri desideri sono destinati a non realizzarsi, a non compiersi. E però, ecco, in questo senso non sono molto d'accordo con l'ascoltatore che diceva che Azzurro è l'anti 68. Questo puzzle di immagini anche un po' surreali, il treno dei desideri che nei pensieri all'incontro è l'inizio del declino, certo. È anche un po' quello che chiamavano l'immaginazione al potere nel 68, cioè c'è un po' l'idea di un testo molto innovativo e ecco, non sarà socialmente impegnato, però è forse appunto più importante e più duraturo, più da long seller di quanto non siano stati quelli socialmente impegnati. Però c'è un profondo senso profetico, potrebbe essere una canzone che preannuncia uno spartiacque, fra la fine dell'ottimismo del boom e l'inizio degli anni dell'austerità, perché queste domeniche assolate in cui si andava a piedi, in cui si usavano mezzi di locomozione modesti rispetto a quelli a cui eravamo abituati, un po' poi l'abbiamo sentito tutti, le domeniche per strada, le domeniche senza automobili, in realtà erano di una tristezza profonda, al di là dell'euforia andiamo tutti per strada, ma poi ci scocciavamo a dover camminare per strada. Eh sì, certo, e questo è uno spartiacque, che appunto lavora non su un testo appunto così didascalico, ma che lavora su immagini piuttosto suggestive, tra cui il treno dei desideri è un po' quella centrale. Come dicevi tu, c'è un sottofondo esistenziale piuttosto significativo, insomma, in questa canzone. Una battuta, Mauro, buongiorno. Ah, buongiorno. Lei perché odiava questa canzone? Praticamente, con l'ultima parola che avete detto, potrei andare da Paolo Conte e farvi fare i numeri del lotto, perché se era così, ha previsto così il futuro quella canzone. Io, il mio intervento era diverso e per motivi di tempo anche brutale. Io sono nato nel 49, quindi praticamente all'epoca avevo 19 anni e per me era reazionario dal punto di vista musicale e culturale quella canzone. Ah, la considerava reazionaria? Sì, come suono, come tutto. Poi bisogna ricordarsi, praticamente chi all'epoca aveva 7-8 anni non può certo avere ricordi, per dire, i Beatles, Rolling Stones e Dylan sono tutte persone nate a inizio anni 40. Quindi chi è nato nel 54-55 era bambino, può avere certo ricordi, potrebbe anche ricordare Andiamo a mietere il grano, per dire. Sì, sì, io di questa canzone ricordo la copertina del disco, mi colpì molto perché invidiavo tanto quei pantaloni di Celentano color senape con i bottoncini e le scarpe bianche e marroncine, mi sembrava un accostamento meraviglioso, le desideravo tantissimo e mai avrei potuto sognare soltanto di poterle toccare. Fabio, quella copertina ti ricorda qualcosa a te? Eh sì, beh, io avevo 6 anni. E quindi comprai il disco e appunto la copertina faceva un po' un tutt'uno con il sogno appunto del baobab, del treno, cioè era la prima volta che si vedeva innanzitutto che si sentiva la parola baobab in un testo e poi che insomma le copertine che illustravano in genere ho scritto Tamo sulla sabbia, c'era scritto appunto Tamo sulla sabbia, o Luglio c'era Riccardo del Turco che sorrideva, cioè erano copertine un po' ruffiane, un po' così banali. Quella invece dava un'idea di un Celentano stravaccato, spaparanzato, di un Celentano già esotico, già americaneggiante, insomma era per molti versi una serie di effetti, novità che andavano dalla copertina al testo, alla musica. Grazie Fabio Canessa, grazie a tutti quelli che hanno aggiunto la loro esperienza alla nostra, il loro ricordo al nostro, la loro avversione alla nostra piacevolezza. L'appuntamento è lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.